9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 8 giugno e avevamo iniziato ieri la settimana con una duplice riflessione. Da una parte, se fosse ipotizzabile che davvero la Commissione Europea ci consentisse fino al 2018, magari il 2016 al massimo, l'applicazione lenta dell'innalzamento del tetto di pensionabilità per la vecchiaia delle dipendenti pubbliche, dopo poche ore della nostra trasmissione è venuta la netta risposta della commissaria Reding al ministro del lavoro e del welfare italiano Maurizio Sacconi, che l'aveva incontrata. La risposta è stata secca da parte della commissaria: non se ne parla neanche, l'Italia deve applicare l'innalzamento delle pensioni rosa nel settore pubblico a 65 anni entro e non oltre il 2012, nessuna gradualità. La domanda che vi chiedo alla quale vi chiedo di rispondere è se siete d'accordo o meno a questa richiesta così pressante da parte della Commissione e se vi trovate in qualcuna delle proposte che oggi sulla stampa italiana trovate affiancate a questa diktat, chiamiamolo così, della Commissione, perché in realtà i più dei media italiani reagisce con una certa sorpresa a questa linea della durezza, chi facendo notare che in Francia nel settore pubblico oggi in realtà la pensionabilità di vecchiaia, il tetto è di 60 anni sia per i maschi che per le donne, e nessuno si sogna di dire alla Francia entro il 2012 passate a 65 anni. All'Italia invece sì, è vero che noi abbiamo un debito pubblico molto maggiore di quello francese, ma su molti quotidiani trovate stamattina delle proposte aggiuntive. Per esempio sulla stampa, lo dico per chi volesse intervenire, telefonarci, soprattutto ascoltatrici, Piero Ichino, giuslavorista, lo ascoltiamo spesso, senatore del PD, dice: sì, però il governo, ora che deve ottemperare al diktat della Commissione Europea, ed è bene, dice Ichino, abbassi le tasse alle lavoratrici, perché consentiamo loro, non solo obblighiamole a stare di più al lavoro nelle condizioni attuali, ma consentiamo loro di partecipare di più al mercato del lavoro. Noi dobbiamo innalzare l'occupazione dal 46 al 60% per il totale delle donne, il più dell'occupazione aggiuntiva che dobbiamo fare per alzare la nostra produttività sta proprio nel settore femminile. Siamo 17 punti indietro rispetto alla Germania nella partecipazione della donna al mercato del lavoro. La proposta di Ichino, come di altri economisti della voce.info, come di Alberto Alesina e di Perotti, è quella di abbassare le tasse alle donne, cioè di fare una selezione per genere e, abbassando le tasse solo sul lavoro femminile, agevolare loro la possibilità di partecipare al mercato del lavoro. E altre voci su altri quotidiani propongono, nel Sole 24 Ore per esempio, il congedo parentale pagato di più anche agli uomini, come parte del progetto tedesco dell'ex ministra del lavoro, diventata poi per pochi giorni candidata alla presidenza della Repubblica tedesca dopo le dimissioni del presidente tedesco per via di quella infelice battuta sull'Afghanistan. Come la pensate su questo? A favore o contro del tetto immediato solo per l'Italia? E se sì, con quali misure aggiuntive? Siete favorevoli a questa proposta di tassazione per le donne, oppure comunque in cambio il governo deve varare un pacco di provvedimenti per consentire alle donne, ora che dovranno lavorare di più, anche di avere migliori condizioni sul posto di lavoro? Quindi primo focus su questo, ma il secondo focus è quello che ci viene giorno dopo giorno dai mercati. Ieri ulteriori ampliamenti dello spread dei titoli pubblici italiani rispetto al Bund tedesco, abbiamo toccato praticamente oltre i 170 punti, quasi 180, quindi in 8 giorni di borsa siamo passati da 90 a 180. I mercati continuano a dare segni di sfiducia sulla tenuta complessiva dei conti e dei debiti europei, e quindi ieri, a sorpresa rispetto a chi immaginava, con l'Ecofin oggi in corso, un confronto diretto, così si era pronunciato, tra il presidente francese Sarkozy e la Merkel, in grado di accontentare coloro che vogliono più crescita aggiuntiva attraverso strumenti multilaterali europei. Invece, sorpresa, ieri il colloquio non si è tenuto, è stato aggiornato la settimana prossima, e invece dalla Germania la novità è quella del primo Consiglio dei Ministri che vara la procedura di bilancio, che dura un paio di settimane. In questo Consiglio dei Ministri notizie a sorpresa, perché la manovra quadriennale tedesca è sugli oltre 80 80 miliardi di euro. 80 miliardi di euro in 4 anni significano più o meno 3-3-3-4 punti di PIL tedesco. Se ci pensate rispetto al punto virgola 6 biennale della manovra italiana, l'importo non è poi di molto maggiore rispetto al PIL tedesco, con la differenza naturalmente che il debito tedesco è molto minore del nostro, e la Germania però, a sorpresa rispetto a chi si immaginava tagli minori, delude soprattutto coloro che in Europa dicevano: cara Germania, poiché tu hai la posizione più elevata in attivo della bilancia commerciale, dovresti consentire ai paesi più deboli dell'Europa una prospettiva di crescita comune più solida. Come? Sostenendo la tua domanda interna, cioè consentendo al resto dei paesi europei, in primis all'Italia, di poter contare su un più elevato assorbimento di prodotti da parte dei tedeschi, quindi di esportare di più in Germania. Invece la Germania, con questa maxi manovra, delude le aspettative di un motore di crescita per agevolare le esportazioni altrui, e dice agli altri membri dell'Unione Europea, è come se dicesse: carissimi amici, se voi volete rimanere nell'euro come uno scudo in una gabbia, dovete fare due cose: molto rigore nei conti pubblici, perché noi arriveremo a un deficit dello 0,35 del PIL nel 2016, e seconda cosa, grande rigorosa produttività nella parte privata dell'economia, con grande competizione, e se non siete capaci di esportare come noi in Cina, in Asia, nei mercati sostitutivi rispetto a quelli europei in cui la domanda resterà debole, cari amici, che cosa vi dobbiamo dire? Fatti vostri, perché dovevate pensarci prima. E questo è il secondo focus della giornata, e quindi su questo noi andiamo avanti nella nostra riflessione. I mercati, come avete sentito oggi, sono un pochino meno negativi, anzi più positivi. Ma di qui a pensare che l'onda che si è messa in moto dall'inizio di gennaio di sfiducia verso la tenuta dei conti pubblici e dei debiti pubblici europei sia esaurita, la mia opinione è che è meglio non commettere questo errore. Cominciamo proprio dalla Germania, per capire meglio questa manovra, come si articola, quanti tagli veri sono, se sono tagli più severi rispetto a quelli italiani, che in buona sostanza sono poi soprattutto per una dozzina di miliardi sugli enti locali, e per il resto con le finestre chiuse per i dipendenti pubblici e per lo stop agli aumenti per i dipendenti pubblici, sono, come dire, dilazioni di pagamento più che interventi strutturali di limitazione dei fattori strutturali incrementali della spesa pubblica italiana. Vediamo invece in Germania che cosa si preannuncia in questi 80 miliardi e oltre in 4 anni. Abbiamo collegato con noi Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, al quale chiediamo lumi, oltre a ringraziarlo per questi minuti a cui lo strappiamo dal suo lavoro prioritario per il Sole 24 Ore. Buongiorno Romano. Buongiorno. Allora, questa manovra è una manovra a sorpresa, e dove taglierà davvero? Allora, prima di tutto è una manovra composta sia da tagli alla spesa che da aumenti fiscali. Sul fronte dei tagli alla spesa sono tendenzialmente, devo dire, tagli strutturali. L'idea del governo democristiano liberale è di agire in particolare sul welfare state e sui sussidi che vengono utilizzati per aiutare i disoccupati e per aiutare le famiglie con bambini. Questi sono i due campi su cui agiscono in modo particolare i tagli. Poi ci sono tagli anche nella funzione pubblica, verranno eliminati circa 15.000 posti di lavoro e verrà ridotto lo stipendio annuo di un dipendente pubblico di circa il 2,5%. Quindi verrà ridotto rispetto allo stipendio attuale, non è solo lo stop agli aumenti. È uno stop agli aumenti già deciso e in parte già applicato, quindi è una via di mezzo. A questo si aggiunge anche una riforma della Bundeswehr, dell'esercito, che dovrebbe prevedere, ma mancano ancora dettagli su questo fronte perché l'argomento era controverso all'interno del governo, dovrebbe prevedere il taglio di circa 40.000 soldati. Il ministro della difesa Gutenberg vorrebbe eliminare la leva addirittura, ma sembra che non ci sia il consenso da parte dei principali partiti della coalizione al governo. Questi sono le misure sul fronte dei tagli. Sul fronte invece degli aumenti fiscali, il governo introduce alcuni aumenti, in particolare sui voli aerei, e poi c'è un aumento molto, molto particolare sulle società produttrici di energia nucleare che potranno tenere in vita le loro centrali oltre il periodo stabilito, ma pagando una specie di penale fiscale. E poi ultimo aumento fiscale importante riguarda le attività bancarie, ci sarà una tassa sulle banche, sulle attività bancarie, anche qui mancano ancora i dettagli, ma questa è la direzione in cui vuole andare il governo. Mentre invece in merito al dibattito che era sembrato abbastanza effervescente tra democristiani e liberali sull'ipotesi di alzare alcune aliquote dell'IVA, l'orientamento poi finale o che sembra emergere dal governo tedesco, qual è? Alzeranno le aliquote IVA preferenziali, quelle più basse, o non le toccheranno? La mia impressione è che a un certo punto le potranno anche alzare. Ieri il ministro degli esteri, vice cancelliere e presidente del Partito Liberale ha voluto affermare perentoriamente che questa manovra non prevede aumenti fiscali sul reddito e non prevede aumenti dell'IVA sui prodotti agevolati. Quando lo ha detto, la signora Merkel ha abbassato gli occhi e guardato il foglio davanti a sé. Ho avuto l'impressione che questa ipotesi non potesse essere completamente esclusa nel futuro prevedibile. Nel frattempo gli ultimi dati sul commercio estero tedesco sono abbastanza incoraggianti, quindi una ripresa quella tedesca più che sulla domanda interna centrata sull'export. Come al solito, la Germania in questo momento sta approfittando della sua enorme e straordinaria proiezione internazionale. Questo è un paese che ormai esporta più del 50% delle sue esportazioni fuori dall'Europa. La Germania è sempre più esposta e proiettata sui grandi mercati internazionali. Lo abbiamo notato ieri con un piccolo dettaglio, ma estremamente interessante. Gli ordini industriali in aprile sono aumentati di circa il 2,8% rispetto a marzo. E la cosa buffa è che ha mosso il cambio del real brasiliano. La moneta brasiliana si è rafforzata rispetto alle altre monete e secondo gli operatori uno dei motivi naturalmente è proprio la forza dell'economia tedesca sui grandi mercati internazionali, perché uno dei mercati di sbocco sempre più importanti è il Brasile. Quindi c'è un legame buffo che è apparso in quel frangente, ma è uno dei tantissimi legami che dimostrano la forza dell'economia tedesca fuori dall'Europa. Un'ultima questione per cominciare, erano amplificate le voci di un ennesimo contrasto tra la Merkel e Sarkozy originante il rinvio dell'ennesimo chiarimento tra i due, a sua impressione, Romano, oppure invece sono i tedeschi che per l'ennesima volta dicono: noi intanto assumiamo i nostri provvedimenti, cari francesi e cari sviluppisti federalisti, ci vediamo la settimana prossima? Ma ci sarà probabilmente un po' di tutto dietro a questo annullamento di questo incontro, devo dire annullamento a sorpresa, tanto più che la scelta è stata decisa dai tedeschi apparentemente. La signora Merkel ieri ha presentato questo piano quadriennale di tagli e di aumenti fiscali dopo una riunione che è durata su 2 giorni e doveva, sulla base della tradizione politica tedesca, presentarla immediatamente ai capigruppo parlamentari. Ed è quello che ha fatto ieri pomeriggio, quando avrebbe dovuto incontrare Sarkozy. Sarkozy doveva arrivare a Berlino alle 5 del pomeriggio. Certo, avrebbe potuto organizzare un po' meglio le cose e quindi è inevitabile avere un po' dei sospetti sul perché è stato cancellato l'appuntamento così a ridosso. È evidente che non è un periodo felice nei rapporti tra Parigi e Berlino, perché in questo momento la Germania sta andando per la propria strada e non risponde alle richieste europee di maggiore coinvolgimento e di maggiore sensibilità alle necessità dell'Europa, di fronte alle pressioni francesi. Ecco, io ringrazio Beda Romano, torneremo poi con il professor Vaciago a commentare l'aspetto un pochino europeo di questo motore di crescita che resta molto differenziato. La Germania conta sulla propria forza, io ho più volte detto che se fossi tedesco ragionerei molto probabilmente esattamente come ragiona oggi la classe dirigente di quel paese, chiedendo agli altri paesi europei di adeguarsi, per così dire, perché è un pochino comodo chiedere a chi ha dei buchi e difetti nei propri conti pubblici e ha più bassa produttività, è un po' comodo da parte nostra e da parte degli altri paesi più deboli chiedere alla Germania, che è stata meno cicala nella parte pubblica ed è stata più produttiva nella parte privata, ragazzi dateci una mano, perché il problema è che ognuno una mano se la deve dare a casa propria innanzitutto. Come reazione, esempio di reazione un pochino incredula rispetto al diktat venutoci ieri dalla commissaria Reding sulla pensionabilità femminile, vi propongo solo qualche riga per esempio dalla prima pagina della Stampa di oggi. Massimo Gramellini, che usa la chiave dell'ironia, io vi invito a riflettere, Gramellini in realtà non sta dicendo che cattivona la commissaria Reding, usa ironia, ma è un'ironia un pochino, per così dire, ambigua. L'attacco del pezzo di Massimo Gramellini è: davvero strampalate le motivazioni con cui la commissaria europea alla giustizia Viviane Reding impone all'Italia di equiparare entro il 2012 l'età pensionabile di uomini e donne. C'è una sentenza della Corte europea, in democrazia le sentenze si rispettano, al manaccato. Già qui ci sarebbe parecchio da eccepire, dice Gramellini. E poi dice: e con ciò, quando anche ci fosse questa sentenza, noi abbiamo i nostri ritmi, scrive. Praticamente conosciamo come nessun altro la sofisticata arte del rinvio, ve l'avevo detto, è ironico, non sta attaccando la Reding, però in realtà tutti questi argomenti, ma insomma una sentenza perché a noi sì e ai francesi no, e poi la materia previdenziale è materia nazionale, abbiamo i nostri tempi, i nostri ritmi, continua a dire Gramellini, perché dire di colpo la verità come ha appena fatto il premier inglese, quando si può continuare a mentire tranquillamente alla giornata. Vedete che più va avanti il commento più si capisce che in realtà Gramellini sta con la Reding. Il problema però è che molti di questi argomenti li ritrovate in veste seria sui quotidiani italiani oggi, che dicono: beh, insomma, ma perché solo a noi, quando noi non siamo la Grecia, il Portogallo, la Spagna, cioè i paesi che più hanno fatto ballare l'euro fino a questo momento? Ecco, spostiamoci sul secondo focus della nostra riflessione di oggi, quella di dover fare non solo rigore nei conti pubblici, ma più spazio per la competitività, liberando risorse quindi per le imprese e per il lavoro. Ieri abbiamo parlato con il presidente dei piccoli di Confindustria Boccia dell'ipotesi annunciata dal governo di cambiare l'articolo 41 della Costituzione, più spazio per l'autocertificazione dell'impresa. Oggi abbiamo come ospite Raffaello Vignali, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, nonché ideatore, organizzatore di un progetto di legge ordinario che sta già in Parlamento, anzi è già nel suo iter di approvazione, lo Statuto dell'Impresa, nel quale ci sono molti elementi che inducono molti a dire, per esempio ho trovato un intervento del professor Onida oggi su Sole 24 Ore, che non c'è bisogno della modifica costituzionale voluta dal governo, tanto vale andare già avanti con questo progetto di legge ordinaria, di cui a questo punto parliamo col suo ideatore, onorevole Vignali. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questa idea di statuto quali fondamenti ha per consentire di immaginare che senza i tempi lunghi di una modifica costituzionale potrebbe derivarne un maggiore spazio di libertà alla piccola impresa italiana, la spina dorsale del nostro sistema produttivo? Ma tanto, se posso fare una piccola premessa, io intanto devo dire che io sono d'accordo anche con Tremonti sul fatto di pensare a una riforma della Costituzione sulla quale non vedo niente di scandaloso, anche perché la Costituzione è stata fatta quando il nostro sistema di imprese era molto diverso da quello attuale. Eravamo un paese prevalentemente rurale, basato sul latifondo, perché la riforma agraria non c'era ancora stata, avevamo un po' di grandi imprese e un po' di piccole attività, il boom è venuto dopo e ci ha portato a essere il paese col più alto tasso di imprenditorialità del mondo. Detto questo, quindi anch'io insomma sono d'accordo con Tremonti in questa lettura. Io credo che noi dobbiamo trovare degli strumenti di lungo, di medio e di breve periodo su queste cose. Lo statuto, c'è addirittura chi ha proposto, come di Vico, di farlo diventare un disegno di legge costituzionale in attuazione dell'articolo 41 da cui parte. Lo statuto delle imprese poggia su due articoli della Costituzione, l'articolo 41, quindi quello sulla libertà di impresa, e il 117, quello sulla concorrenza. Sostanzialmente l'idea è di far diventare diritti delle imprese i principi che sono contenuti nello Small Business Act dell'Unione Europea, che purtroppo non hanno nessuna forza coercitiva nei confronti degli Stati, essendo una comunicazione, sono solo inviti agli Stati membri, che però portano dentro tanti contenuti molto molto forti. Faccio alcuni esempi. Sono diritti verso lo Stato e l'amministrazione. Ad esempio, c'è il silenzio assenso sistematico, il fatto che su ogni richiesta nella pubblica amministrazione il tempo massimo sia di 60 giorni e il procedimento sia interrompibile una volta sola. Oggi al penultimo giorno ti arriva la lettera che dice manca il tal documento e ripartono i tempi e diventano infiniti. Se non arriva risposta, l'autorizzazione è automatica. Se arriva risposta negativa deve essere motivata, ma la motivazione non deve essere imputabile alla stessa amministrazione pubblica. Non abbiamo ancora fatto il tale piano, non è possibile, perché l'imprenditore, il cittadino, non può dire al fisco guarda, devo ancora raccogliere alcune fatture, quindi le tasse te le pago quest'altro anno. Se il cittadino deve rispondere in tempi certi, lo stesso deve fare la pubblica amministrazione. Peraltro, se questa mancanza di rispetto dei tempi della pubblica amministrazione in tempi normali è una cosa odiosa, in tempi come questo di difficoltà è un delitto, perché tiene ferma l'economia in modo impressionante, quindi tiene fermo la possibilità di lavoro, di occupazione. C'è un'impresa vicino a casa mia che deve fare il nuovo stabilimento, deve aprire il primo di settembre, a oggi non sa se avrà la lacciatura dell'acqua. Sono 50 posti di lavoro nuovi in più. Ecco. C'è un altro principio, è il fatto che la certificazione privata, quindi resa da un professionista, certificazione ISO, resa dagli enti di normalizzazione, sostituisce il controllo pubblico. Ecco, io adesso nel lanciare la pubblicità, su questo punto al quale lo aspettavo, leggo una frase che Eugenio Scalfari ha scritto domenica. Eugenio Scalfari non vede favorevolmente l'ampliamento per diritto della sfera di autocertificazione delle imprese e si è chiesto testualmente, mi domando, ha scritto Scalfari, quanti saranno in un paese come il nostro gli imprenditori fasulli che dopo aver autocertificato in proprio favore e aver ottenuto il necessario credito bancario scompariranno dopo qualche mese lasciando un paio di capannoni abbandonati e portandosi via la polpa del credito. Quindi sfiducia pregiudiziale verso questi banditoni, ladri che sarebbero gli imprenditori. Però parole di Eugenio Scalfari. Eccoci tornati, ci eravamo interrotti sulle parole di Eugenio Scalfari, al quale chiederei di dare una risposta da parte di Vignali. Come sono questi imprenditori? Se gli diamo questa possibilità dello statuto dell'impresa e dei diritti di cui stava parlando, ci sarebbe questo fenomeno di falsi di massa, secondo lei? Ma magari se Scalfari andasse a vedere gli imprenditori forse cambierebbe idea. Io credo che invece proprio la complicazione burocratica, l'iperregolamentazione, questa miriade di lacci e laccioli che impediscono alle nostre imprese di essere competitive come gli altri, come ad esempio i tedeschi, sta proprio a come vizio di fondo la cultura di Scalfari, cioè il fatto che un imprenditore in sé è un truffatore, è un potenziale truffatore, un potenziale evasore, un potenziale sfruttatore. Per questo dobbiamo mettergli i paletti. Da questo punto, e questo fa sì che nelle leggi, alle leggi si diano delle caratteristiche improprie, quella ad esempio di prevenire le truffe, che non è compito di una legge che regola la vita delle imprese, per quello c'è già il codice penale e c'è già il sistema dei controlli. Noi abbiamo bisogno di leggi che regolino la normalità, non che prevengano le patologie. Questo è il problema. Infatti nello statuto c'è una rivoluzione culturale, che è l'idea che lo Stato passa dal sospetto verso chi fa impresa alla fiducia verso chi fa impresa, perché con buona pace di tutti, anche di Scalfari, chi fa il PIL e l'occupazione nel nostro paese sono le nostre imprese, e noi non possiamo continuare a pensare che le nostre imprese possano correre una gara che ormai è ai 100 metri, che è una gara di velocità, ingessati come delle mummie. Okay. E poi con una pubblica amministrazione a bordo campo che fa lo sgambetto. Ora, perché io... ha bisogno di uno Stato, un'amministrazione che invece fa il tifo per le imprese. Questa è l'idea di fondo dello statuto. Mi fido di te, quindi faccio il tifo per te. Devo dire all'onorevole Vignali che io apposta un pochino provoco, perché so che poi molti ascoltatori, come immaginavo, in realtà stanno arrivando una raffica di SMS che dicono: guardate che Scalfari ha ragione, guardate cosa succede in metà d'Italia da sempre, la finta impresa per i sussidi, approfittare delle libertà, è un fenomeno vero. Chiedo ad Andrea Lulli, deputato PD, capogruppo in commissione attività produttive alla Camera, che ha avuto una reazione così un po' critica sull'iniziativa annunciata dal governo di riforma costituzionale dell'articolo 41 e che invece credo guardi con attenzione poi ai provvedimenti ordinari che passano per la sua commissione, come anche lui, tra l'opinione di Scalfari, la reazione dei nostri ascoltatori e questo doppio livello, costituzionale o ordinario, come la pensa individualmente il suo partito? Dunque, intanto buongiorno, lei è radioascoltatore e saluto anche l'onorevole Vignali. Ma guardi, allora, bisogna procedere per gradi. La riforma dell'articolo 41 della Costituzione, mi permetto di dire, è un diversivo. Nessuno vieta a Costituzione attuale di modificare le norme del rapporto tra pubblica amministrazione e imprese o cittadini. Io questo credo che bisogna fare molta attenzione, perché questo è un paese dove la dilazione nell'affrontare problemi urgenti viene sempre ammantata di grandi obiettivi che in realtà non fanno altro che allontanare la soluzione del problema. Io lo ricordo a chi ci ascolta, per chi volesse approfondire questa tesi dell'onorevole Lulli, trova a pagina 12 del Sole di oggi il professor Valerio Onida che entra nei dettagli. Allora, voglio dire invece che sono assolutamente d'accordo nel procedere alla semplificazione, direi di più. Penso che la riforma più seria che possiamo operare sulla pubblica amministrazione, che valorizzi anche le tante energie positive che vi sono nella pubblica amministrazione, è l'approccio rispetto al cittadino, anche al cittadino imprenditore. Cioè, bisogna che la pubblica amministrazione si fidi del cittadino che ha davanti. Naturalmente l'obiezione di Scalfari riguarda il fatto che questo è un paese nel quale i controlli alla fine, quando arrivano, finiscono a tarallucce e vino. Quindi significa, se si investe in fiducia e si risparmia tempo, che è un fatto assolutamente decisivo per la piccola impresa, per il lavoro autonomo, ma direi in generale per la vita civile di tutti i cittadini, bisogna poi però i controlli, quando ci sono, siano fatti seriamente. Questo è un punto, diciamo, di mentalità che non è ostacolato dall'applicazione della Carta Costituzionale, assolutamente. Io questo lo respingo nel modo più deciso, tant'è che noi abbiamo, non solo abbiamo firmato, molti di noi, la proposta di legge dello Statuto delle Imprese dell'onorevole Vignali, abbiamo presentato anche noi progetti di legge. Vorrei ricordare che nella scorsa breve legislatura alla Camera fu approvato un provvedimento in cui la stragrande maggioranza dei provvedimenti che riguardavano le imprese andavano in autocertificazione, e vi fu un voto quasi unanime della Camera, con la sola eccezione dei deputati della Lega Nord. Quindi questo significa, poi purtroppo la legislatura si concluse, il provvedimento non è andato avanti. Devo dire che in questi due anni non è andato avanti niente. Anche, vorrei ricordare, c'è un po' di confusione, perché da una parte abbiamo il 112 dell'agosto del 2008 che delegifica una serie di questioni demandandole a decreti attuativi che stiamo esaminando in commissione ora, che però non risolvono il problema. Poi si rimonta nel Brunetta e si delegifica quello che il 112 aveva delegificato, e poi abbiamo nell'ultima manovra dei Tremonti un rimontare sopra, per esempio sullo sportello unico, e non sappiamo allo stato attuale, devo dire, non so quali effetti possa avere. Quindi la sua opinione è: procediamo sull'ordinario senza annunci, manifesto del costituzionale, di disegno di legge costituzionale, e quanto all'ordinario, insomma, più ombre che luci, perché avete messo mano in maniera contraddittoria in questi due anni, in sintesi estrema. Devo dire che molti ascoltatori, mi dispiace, si sono arrabbiati perché cito Scalfari in sua assenza. Ho citato Scalfari per dare rilievo all'obiezione, consentire all'onorevole Lulli poi di seguire. Quindi non è che, ragazzi, ma non è che possiamo pensare che la par condicio significa che si cita qualcuno solo se è presente. Ma come avete idea che le trasmissioni radiotelevisive siano dei processi dove inaudita altera pars non si può citare nessuno? Ma io non lo so, questo cavolo di santorismo che è entrato in testa a tutti. Poi dopodiché lui le fa in contumacia di tutti, tranne che dice lui, e diventa un mobbizzato. Ma mobbizzate anche me per i suoi soldi, scusate se ve lo dico. Comunque, detto questo, ora abbiamo il professor Giacomo Baciago, che segna economia politica alla Cattolica, al quale chiediamo la sua opinione sulla manovra tedesca, che delude un po' chi aspettava più crescita e esportazioni tedesche e invece dice: noi esportiamo la metà dei nostri prodotti fuori, fate così anche voi. Delude un po' chi, insomma, come i francesi, voleva un motore europeo dopo questi mesi di crisi. E dall'altra un commento anche a questa imposizione abbastanza rigorosa della Commissione europea sul 2012 come limite per innalzare a 65 anni tetto di pensione dipendenti femmine, donne, scusate, pubbliche nel nostro paese. Alcuni ci mandano gli sms, professor Baciago, dicendo: perché non ce lo impongono anche per i costi della politica e dei parlamentari e non solo per i tetti di pensionabilità? Insomma, su queste due cose qual è l'impressione del professor Baciago? Buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti. Beh, come ovvio, tra noi litighiamo sull'inutile articolo 41 della Costituzione. I tedeschi impongono l'agenda. Un anno fa il governo di coalizione, grande coalizione tedesco, ha approvato un emendamento costituzionale della loro Costituzione in cui ha messo dentro il Schuldenbremse, cioè il divieto di fare debiti. Fantastico. Il bilancio tedesco fra 4 anni sarà in pareggio. Beh, noi sarebbe bene che li imparassimo un po' il tedesco, perché questo significa che la manovra che il governo si appresta a portare in Parlamento è un antipasto di quello che dobbiamo fare nei prossimi 4 anni. Attenzione, il benchmark è il tedesco, non come lingua, ma come tasso di interesse, e l'abbiamo già visto sullo spread francese in questi giorni. Quindi andiamo con ordine. In 4 anni dobbiamo tagliare 5% del PIL, di deficit. Come si fa? Non certo con l'articolo 41, ciascuno faccia quello che vuole, il problema è che dobbiamo tagliare il deficit, e allora c'è da ragionare seriamente se le parti della pubblica amministrazione inefficienti ci servono o dobbiamo chiuderle, ma non tanto perché così i cittadini fanno da soli, perché basta metà dei dipendenti pubblici con le moderne tecnologie. Oh, che sinfonia, vada avanti professore. Allora, se io leggo dove parla di crisi dell'economia italiana, la relazione della Banca d'Italia, attenzione, le 18 pagine del governatore le impariamo a memoria. Poi c'è il volume. Però c'è il libro da leggere, e lì è micidiale. Consiglio a tutti di leggersi le pagine 113-118. Il concetto più ribadito su quel che serve all'Italia, e ve lo leggo perché è detto più volte in più pagine: la capacità delle istituzioni pubbliche di assicurare tutela della legalità, senti che bello, protezione dei diritti di proprietà e rispetto dei contratti, una buona e poco onerosa azione amministrativa. Giro la pagina, il corretto funzionamento del sistema produttivo richiede un'azione pubblica in grado di garantire qualità dell'azione amministrativa, certezza delle regole e loro effettiva applicazione, nonché tutela della legalità. Questo serve il governo, non a fare le leggi. Ora la interrompo su questa citazione della Banca d'Italia, perché poi, dopo le informazioni sulla circolazione stradale, io le chiedo, professor Baciago, di commentare le telefonate dei nostri ascoltatori che manderemo in onda. Eccoci tornati in studio. Alcuni ascoltatori ritengono che non debba citare né Scalfari né Santoro, perché io, a differenza di loro, inizio per essere, ma sono un servo. Da sorridere, ricordo a chi c'è in ascolto che piccolo, insomma, quando avevo un programma in diretta su Rai 1 fu Berlusconi a non confermarmi, ma mi viene da sorridere di fronte a come gli ascoltatori a volte sono abituati a mettere dei timbri. Stiamo criticando oggi l'iniziativa del governo sull'articolo 41 della Costituzione, vedete voi a casa se siete in grado di capire a volte quello che uno dice. Comunque, sentiamo alcune telefonate e chiediamo poi al professor Baciago di aiutarci a commentare che cosa pensano i nostri ascoltatori. Innanzitutto Francesco dalla provincia di Caserta. Prego Francesco. Giannino, buongiorno. Sono d'accordo ad elevare l'età pensionabile delle donne fino a 65 anni, però vorrei che lo Stato italiano, i governanti, si adeguassero ovviamente a quasi tutte le direttive praticamente della Commissione europea. Perché spesso e volentieri le cose che possono portarci a farci diventare civile, i nostri politici non si adeguano e ci impiegano tantissimo tempo. Mi rendo conto che i conti in questo momento sono indispensabili, sono un piccolo imprenditore del sud, ma le assicuro che fare la mamma al sud con tutti i servizi è davvero difficile. E infatti su questo la testimonianza di Francesco ci aiuta a riequilibrare un pochino, perché altrimenti sembrava che gli imprenditori del sud fanno solo il mordi e fuggi, mi sembra un pochino ingeneroso nei confronti di chi si deve sobbarcare a tutte le esternalità negative che vi sono in quelle aree. Gianluigi da Bologna, prego. Buongiorno, volevo dire che la sentenza della Corte europea non riguarda l'innalzamento dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche, ma la parificazione fra uomini e donne. Ha correttamente e precisamente ragione. Perché non c'è fra tutte le proposte che sono state fatte una proposta che in via transitoria venga abbassata l'età pensionabile degli uomini con un taglio ai rendimenti in maniera che non ci sia un aggravio nella spesa complessiva, quindi si bilanci l'abbassamento dell'età degli uomini fino ad armonizzare gradualmente con quella delle donne, con un abbassamento dei rendimenti per chi è distante dai 40 anni di versamenti contributivi. Bilanciando... Però lei sa che, aspetti un secondo, perché tecnicamente se fosse pensabile questa cosa, però questa cosa fa a pugni con i diritti garantiti dalla riforma Dini per tutti coloro che se hanno oggi 60 anni hanno avuto la maggior parte del loro percorso contributivo garantito da un sistema retributivo e non contributivo. Quindi il suo tipo di logica di bilanciamento in realtà avrebbe un no secco dalla Corte Costituzionale. Glielo dico Gianluigi perché ovviamente questo limite renderebbe la sua proposta, cioè l'abbassamento per ottenere la parificazione, che è il vero pretesto per intervenire, l'argomento, anzi non pretesto, per intervento della Commissione, renderebbe la sua proposta onerosa. E quindi mi permetto in questo caso di rispondere io al posto del professor Baciago, parecchio onerosa. Franco da Mantova, prego. Buongiorno, due dati. Deve abbassare la radio, sennò non sentiamo nulla. Allora, Bild Zeitung di gennaio, sole 24 ore di febbraio, il rapporto, allora... PIL in Italia chiaramente, spesa pensionistica era di 1 a 4, adesso sarà di un punto, presumo, dopo le manovre e l'assistenza della Corte europea. Quindi diciamo questo dato mette chiaramente in evidenza che il problema per quanto riguarda la necessità di far cassa dalle nostre amministrazioni non è sicuramente la spesa pensionistica in Italia. Sono 16 punti di PIL, sono 16 punti di PIL la spesa pensionistica. Sì, ma lei deve guardare il rapporto PIL-spesa pensionistica, sì. Lasci perdere i punti. No, non lascio perdere, mi spiace. Deve guardare il valore netto, su questo. Il valore netto è che al di là degli 8 miliardi erotti dichiarati dall'INPS nel suo bilancio di attivo, i trasferimenti pubblici all'INPS l'anno scorso sono stati di 87 miliardi. 87 meno 7 significa 79 miliardi al netto di trasferimenti dalla fiscalità generale all'INPS per la sostenibilità dei conti previdenziali. Questi sono i conti, guardi, li conosco abbastanza a memoria. Comunque ho capito la sua obiezione. Sentiamo il professor Baciago in conclusione a cosa ci invita come riflessione dopo averci detto che insomma il ritmo di marcia lo fanno un po' a ragione i tedeschi. Ma io direi che la riflessione sulla pensione è emblematica di un paese che nel privato considera come valore il lavoro, l'imprenditorialità, il successo, e nel pubblico considera come un valore il prendere i soldi e scappare, la pensione prima possibile. Allora, tutti gli imprenditori che io conosco a 90 anni ancora lavorano, perché il vecchio in casa è sempre una persona utile, saggia e lavora fino che può. Perché dovremmo cercare di andare in pensione prima possibile? Perché questo è come noi trattiamo ciò che è pubblico, quindi il diritto di prendere i soldi e scappare. Beh, è ora di finirla. Lavorare è importante per ogni paese, è il vero valore, non è andare in pensione, il valore è lavorare, e quindi dovremmo cominciare a dire che più si può lavorare e meglio è. Il successo di questo paese nell'ultimo secolo si misura con l'allungamento enorme dell'età di vita delle persone. Questo è impressionante. È la conferma che siamo un paese finalmente civile. Si campa a lungo. Prima si moriva, ahimè, presto. Bene, adeguare ciò, maschi e femmine sono uguali, anzi la vita attesa delle donne è più lunga di quella dei maschi. E quindi noi stiamo ancora ragionando alla donna specie inferiore. Chissà perché, è un'offesa alle donne quella di mandarle in pensione prima. Quindi se però questo dibattito non diventa culturale prima che politico, poi ognuno cerca privilegi. E allora non funziona più niente in questo paese, ciascuno confronta i suoi privilegi con quelli degli altri. Ecco, e io penso che su questa rivoluzione culturale che chiede a ciascuno di noi di non prendere a calci il pubblico, visto che nel nostro privato, alla nostra impresa, al nostro lavoro e al nostro reddito privato siamo così attaccati, in sintesi estrema è un po' questo, secondo me, il messaggio che dalla Germania viene agli altri paesi. Certo, viene con un po' di forza e di orgoglio che possono fare male a chi in realtà ha gap così dolorosi come li abbiamo noi, 5-6 regioni del sud. Però è una lezione su cui riflettere, perché la storia a volte cambia di passo, accelera e chiede a tutti di adeguarsi, perché altrimenti poi lamentarsi non servirà a recuperare il reddito non prodotto. Bene, abbiamo fatto tardi, io ringrazio il professor Baciago, ringrazio l'onorevole Lulli, l'onorevole Vignali e Beda Romano da Berlino. L'appuntamento a domani, ci occuperemo ancora di fisco, state attenti. Grazie in regia a Carmelo Lauricella, Valerio Rocchetti, ad Alessandro Marco Tulli in redazione, la linea al giornale radio, appuntamento a domani.